voluto per l'effetto è il suo proprio naturale, è il suo proprio naturale. Ogni cosa sua natura segue tale mestiero, non è arte né misura che mai facci il vaso verso, non è bianco quel che è nero, con mi chiar vedere la vista non si tende un'alma trista, cangia il tempo per il suo aspetto, ma non muta per l'effetto, è il suo proprio naturale, è il suo proprio naturale. Per questo non è pieno un cavallo come gentile, sai è pur con il purgire, gli è conviene che gli è il suo locco, sempre t'accalore il fuoco, cangia il tempo per il suo aspetto, ma non muta per l'effetto, il suo proprio.